Weekend, il weekend che anticipa l'entrata in settimana tra il 25 aprile e il 1 maggio, quindi presenteremo anche appuntamenti relativi alla liberazione, alla resistenza, appuntamenti che iniziano con una nuova sede, come possiamo, espositiva no, concertistica no, una nuova sede teatrale, si può dire. Erika, buongiorno. Buongiorno William e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sì, si può chiamare una nuova sede teatrale. Sì, perché non no? È bruttissimo, no, assolutamente. Iniziamo allora con tutto ciò ricordando che dagli anni 50 siamo passati agli anni 70 con un vestitino e una conciatura che ha abbandonato la crocchia della volta passata per quanto riguarda Erika, la segretaria, che poi segretaria non è ma è protagonista della nostra rubrica in scena, ha fatto un salto in avanti nel tempo. Questa nuova sede teatrale qual è? Come si chiama? Dov'è? Allora, questa nuova sede teatrale è il DOM, ovvero la cupola del pilastro, che si trova in via Panzini. Esatto. E appunto ospiterà una rassegna tutta dedicata all'infanzia, ai più piccoli, per avvicinarli al mondo appunto teatrale. E si tratta di un progetto in collaborazione con Onfalos, Infanzia al Centro e Teatro delle Briciole. E si tratta di due laboratori che sono iniziati in realtà mercoledì il 18 aprile e si protrarranno fino al 22 aprile. Esattamente. Sì, si tratta appunto di due laboratori. Il primo si intitola In cima al teatro e i giovanissimi, quindi bambini dai 7, 8, 10 anni, saranno coinvolti nel mestiere del teatro, conosceranno gli strumenti, diciamo così, del mestiere teatrale. E l'altro laboratorio è un laboratorio di coreografia, infatti si chiama Coreografia Infinita, e i bambini inventeranno dei movimenti e poi con questi movimenti appunto verrà creata una coreografia teatrale. Certo, uno spettacolo, una scrittura, una narrazione dal niente, il fascino per quanto riguarda i più giovani di riportare in scena emozioni, scrittura e la realtà, trasformarla per essere recitata è indubbiamente nell'immaginario non solo degli adulti ma anche dei più piccoli qualcosa di molto affascinante. Si conclude il 22 aprile sempre alle 17:30 Teatro delle Briciole per lo spettacolo finale Viva Prova di Resistenza, una storia di cui ci saprà dire di più il direttore artistico Febo Del Zozzo, che ha dispetto di questo nome invece i progetti sono quanto mai brillanti, perché portare il teatro ai più piccoli secondo me è una cosa molto molto bella per riuscire ad avere anche un percorso futuro, no? Per questa disciplina, per questa creatività artistica fondamentale. Onfalos, Infanzia al Centro, tutto ciò è curato da Laminari, che da un po' è che cerca, vogliamo venire in scena per presentare i nostri progetti. Beh, benvenuti, perché esatto, noi cerchiamo di dare a 360 gradi spazio in una situazione quanto mai più variegata ed eterogenea. Come vi dicevo, Febo Del Zozzo l'abbiamo raggiunto per saperne di più, sentiamo le sue parole. Sono dei laboratori che fanno parte della storia di Laminari, cioè il lavoro che c'è a latere della messa in scena, quindi il lavoro tecnico e imbastire una coreografia con i bambini e i ragazzi. Questo per dare una consapevolezza o cercare di dare una consapevolezza ai bambini e agli adolescenti di che cos'è, che cosa vuol dire mettere in scena uno spettacolo, insomma. Quindi c'è tutto il lavoro che c'è a monte prima della messa in scena, quindi la costruzione di un fondale, di che cos'è, come funziona la macchineria teatrale, gli aspetti luminotecnici e fonici. Bambini e ragazzi dai ai? In questo caso sono più bambini, cioè dagli 8 ai 10 anni, quindi sono fino alla quarta della scuola primaria. Le scuole romagnoli hanno aderito al progetto, che sono le scuole adiacenti al DOM, insomma, al pilastro. Da esperienze passate, com'è la reazione di questi giovanissimi? La reazione dipende dai soggetti, chiaramente, però in generale è una reazione di rendersi conto che c'è una fatica dietro per mettere in scena le situazioni. Alcuni rimangono un po' non esterrefatti, ma con lo sguardo un po' stranito, perché sono chiaramente più abituati a vedere le cose già pronte, già fatte, e soprattutto le situazioni televisive che appaiono già confezionate. Quindi è una voglia di mettere in gioco questo pensiero, cioè che è quello di dare ai ragazzi e ai bambini la consapevolezza, ripeto, di che cosa vuol dire e che cosa ha voluto dire nella storia realizzare e creare nel teatro soprattutto. Al 22 aprile, quindi Onpalos Infanzia al Centro, l'ottava edizione del progetto che la Minaria dedica ai giovanissimi. Giovanissimi che si ritrovano davanti a questa realtà che a volte può essere anche spiazzante per la fatica, perché teatro non è semplicemente andare in scena e prendere gli applausi, ma soprattutto è sacrificio. No, assolutamente. Come fare radio. È un lavoro, sostanzialmente. Assolutamente sì. Intanto il 22 aprile con il Teatro delle Briciole si chiude per quello che è lo spettacolo conclusivo. Viva prova di resistenza. Quindi andiamo in scena. In questa seconda parte di intervista di cosa parliamo, Erika? Parliamo di sempre i laboratori e poi di questo spettacolo finale della Resistenza di Parma. Si lavora su delle opere già portate in scena oppure è un aspetto più generale? No, è un aspetto più generale e soprattutto i due laboratori, uno si chiama appunto In Cima al Teatro, che è quello legato alla tecnica del teatro, e poi c'è un altro che è Coreografia Infinita. E io ho fatto fare ai bambini un movimento e lo creano loro, che deve essere sempre quello, e metto insieme i vari movimenti e creiamo insieme una coreografia su due audio diversi e contrapposti. Andiamo allo spettacolo del 22 aprile alle 17.30, curato dal Teatro delle Briciole, presenta Viva, prova di resistenza. Di cosa si tratta? Si tratta della storia che c'è stata nella città di Parma. La città di Parma ha resistito prima della marcia su Roma al fascismo e si è opposta nei quartieri più popolari della città. Le persone si sono riunite e hanno contrapposto al fascismo una lotta, e quindi sono riusciti a far sì che il fascismo prima della marcia su Roma non arrivasse a Parma, oppure hanno comunque resistito costruendo anche dei muri con dei foratoni. Infatti lo spettacolo simboleggia questo e un'attrice sola in scena utilizza dei foratoni. Certo, e chi sarà in scena? Beatrice Baruffini del Teatro delle Briciole. E lo spettacolo alle 17.30 per la giornata del 22 aprile. Noi ti ringraziamo tantissimo, Febo Del Zozzo, direttore artistico del progetto Laminari. Ti diamo appuntamento a un altro incontro, sempre qua, sui 103.1. Grazie e buona giornata. Buona giornata a lei, grazie a voi. Stagione, ovviamente, con teatri di vita che salutiamo e ringraziamo e che magari riprenderemo per altri progetti, ci mancherebbe, anzi, TC Teatro allo stesso modo di San Lazzaro. Abbiamo altre due sedi che sono Teatro a Granarolo, il TAG, che conclude anche lui la stagione. Esatto, conclude la stagione con un concerto che si terrà sabato 21 aprile, quindi domani alle ore 21. E adesso ci spostiamo al Teatro degli Angeli invece, Teatro degli Angeli dove troviamo un amico di Radio Città Fujiko e non solo, l'abbiamo conosciuto con la pneumatica Emiliano Romagnola, stiamo parlando di Umberto Cavalli. Di cosa si occuperà Umberto Cavalli? Si occuperà anche lui di un concerto, in questo caso di un concerto per la liberazione, quindi appunto in occasione del 25 aprile che si sta avvicinando. Bene, noi lo sentiamo tra pochissimo in frequenza sui 103.1 per una diretta telefonica, quindi mandiamo un po' di musica, ci mettiamo in contatto con Umberto Cavalli, in scena con Erika Verdecchia, William Piana, vi invita all'ascolto e di restare sui 103.1. Meu riso é tão feliz contigo. O meu dal genio, talento, intuito, velocità d'esecuzione, parafrasando un grande film. Alle 8:21 minuti torniamo in diretta improvvisando, aggiungendo uno spettacolo per quanto riguarda gli approfondimenti già corposi che abbiamo. Erika, l'improvvisazione è padrona di questa puntata. Assolutamente, beh, si parla di teatro, quindi l'improvvisazione fa parte un po', no? Come del jazz, dalle 11:30 alle 12:30, teatro e musica. Chi abbiamo con noi? Umberto Cavalli, buongiorno Umberto. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Ti devo buongiorno. Correggere, siamo in tre a lavorare, c'è anche Erika che ti presenta. Ah, c'è anche lei. Buongiorno. Buongiorno, alle 8:20 siamo almeno in tre. Siamo almeno in tre che stanno lavorando. E poi ti tocca anche questa sera uno straordinario però piacevole. Cosa ascolteremo a Teatro degli Angeli? Questa sera facciamo, come già ormai da alcuni anni, un concerto, poi la locandina recita Concerto per la Liberazione. In realtà ci saranno canzoni, ci sarà musica, ma ci sarà anche poesia e danza per rinnovare appunto insieme l'importanza del 25 aprile e per ricordare, per non dimenticare. Quindi l'idea è meritoria e io non so se voi due siate mai venuti al Teatro degli Angeli, ma vale la pena. Io ho curato ascolta Umberto, io ho curato l'impianto elettrico, se mi permetti. Lo conosce Menadito. Esattamente. Benissimo. Ed è un posto, allora confermerai che è un posto meraviglioso. Sì, ne parliamo spesso ed è protagonista nella nostra rubrica In Scena, perché a parte che io amo le periferie e per me devono avere dei piccoli microcentri, sono fondamentali. William, mi permetto di correggere, tu ami la bassa. Io amo la bassa, cioè, però non mi provocare, perché poi mi sgridano che parlo sempre della bassa. Dopo inizio e non parliamo più del concerto. Mentre Erika ti vuol fare una domanda. Ma per quanto riguarda le letture e i brani, sono letture e brani originali oppure attingete da un repertorio tradizionale, autori? No, allora, la parte, diciamo così, di letture e di poesia è curata da Alessandro Dall'Olio. Che si occupa di questa rassegna sempre al Teatro degli Angeli, che si intitola Si fa presto a dire poeti. E per quanto riguarda musica, appunto, c'è Gabriele Baldoni, il grandissimo Gabriele Baldoni, e una piccola delegazione di noi altri della Pneumatica Emiliano Romagnola, e le canzoni della Pneumatica sono sicuramente di estrazione popolare e quindi tradizionali, e sono legate alla prima e alla seconda guerra mondiale, e le letture sono più che altro letture originali poetiche, appunto. Quindi sul palcoscenico Dall'Olio, la Pneumatica Emiliano Romagnola e Gabriele Baldoni e Dani Zavigarani e Giulia Montano come danza. Questo è un grande All-Star Game, per cui pensa in un posto piccolo, una bomboniera come il Teatro degli Angeli, che contenuto immenso ed eterogeneo si riesce ad ottenere. Sì, e poi diciamo, la cosa meravigliosa sono gli angeli che ti guardano, perché se ti giri intorno alle pareti vedi questi angioletti che ti guardano, sono meravigliosi. E ti senti anche protetto, se vogliamo. E poi adesso che so che tu ti sei occupato della parte elettrica e della fonia, devo ammettere che si sente tutto benissimo. Meno male, quindi abbiamo onore al merito. Grazie Umberto. Umberto, hai progetti futuri in queste giornate che ci accompagnano poi al 25 aprile, al 1 maggio? Sì, questo è un gran bel periodo, nel senso che il 22 aprile, quindi domenica, facciamo questo bel concerto a San Giorgio di Piano, concerto spettacolo con la Pneumatica, e organizzato dal comune, e dopodiché andrò a Bordeaux per una settimana con la Fraternal Compagnia, non so se conosci, William, teatro di commedia dell'arte, e andremo là per mettere in scena il Capitan Fracassa, e quindi staremo là una settimana, dopodiché torneremo indietro e continueremo a suonare dal 1 maggio in poi, quindi è un periodo molto molto denso. Sei il solito nulla facente, ho capito. Fai anche il papà intanto. Faccio anche il papà, infatti. Guarda William, ecco, voglio dirti, perché tu l'avevi vista ancora nella pancia di mia moglie, la bimba. Il cantiere è finito. Il cantiere è finito e adesso ha già una sua fisarmonica. che suona, sta già imparando tutte le canzoni della pneumatica, quindi siamo già a posto. Sì. L'erede è già pronto. Esatto, diciamo. Ci sarà una continuità nella famiglia Cavalli. Assolutamente. Puoi ricordarci l'orario dell'appuntamento di questa sera? Sì, alle 21, dalle 21 in poi, perché è una festa e quindi non c'è nulla di messo in scaletta, è tutto assolutamente a braccio. Dalle 21 in poi, via Massa Carrara 3, angolo via Arno, al Teatro degli Angeli. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti invitiamo nuovamente sulle nostre frequenze. Ciao Umberto! Un abbraccio a tutti! Ciao, buona giornata! Ciao. E poi avremo anche il cinema tra pochissimo, dopo lo stacco pubblicitario. Ovviamente non ci fermiamo qui, la seconda parte della nostra rubrica in scena, Last But Not Least, con chi, cara Erika? Con Teatro San Salvatore e Francesca Pierantoni. Officina Guitti, tra pochissimo un'intervista in diretta telefonica con Francesca per conoscere lo spettacolo Movies. Dopo la pubblicità, a tra poco. Sembra una colonna sonora, un tema cinematico questo. Sì, no, decisamente, stavo pensando la stessa cosa, quindi proprio restiamo in tema. Con la presentazione di uno spettacolo che sarà protagonista a Teatro San Salvatore. Con noi ritorna Francesca Pierantoni. Ci sei ancora, Francesca? Buongiorno. Sì, ci sono ancora, buongiorno. Di cosa stiamo parlando? Movies, cinema, teatro, teatro al cinema, di cosa si tratta? Esattamente, si tratta proprio di questo, si tratta di uno spettacolo che vede in scena gli allievi di un corso di teatro, un laboratorio di difficoltà intermedia, che portano in scena alcuni degli spezzoni più famosi della filmografia mondiale. Si va da Frankenstein Junior a Io e Annie, all'Attimo Fuggente, insomma una selezione di pezzi scelti tra comici e drammatici, che hanno previsto uno studio approfondito della recitazione. Certo, quindi in scena con te saranno appunto gli allievi di questo laboratorio. Esattamente, esattamente, saranno in scena con me gli allievi di questo laboratorio, che è partito a ottobre, ed è stato appunto molto approfondito, perché il lavoro che abbiamo fatto è stato veramente minuzioso, partendo dal testo, dal sottotesto e tutto quello che da un testo può nascere e deve essere messo in scena. E domani sera c'è il debutto di questo Movies. Loro sono molto agitati, chiaramente, perché si trovano a fare i conti con dei pezzi veramente importanti, veramente sacri. Però insomma è stata una bellissima esperienza e loro sono anche molto bravi, quindi sì, comunque abbiamo scelto di... No, dicevo, hai anticipato la domanda che ti volevo fare, una grande emozione misurarsi con questi dialoghi. Sì, esattamente, dialoghi, monologhi di una certa rilevanza, perché appunto sono proprio, ovviamente il paragone non si può fare, un po' perché stiamo parlando di veramente mostri sacri della recitazione mondiale, tipo Glenn Close, che fa il monologo di Madame de Mertel nelle Relazioni pericolose. È chiaro che noi abbiamo studiato quel testo, l'abbiamo riadattato a quelle che sono le intenzioni del nostro stare sulla scena. È chiaro che noi non abbiamo una scenografia, non abbiamo i costumi, non abbiamo le cose che una grande produzione hollywoodiana può avere, però le motivazioni che muovono i personaggi le abbiamo studiate approfonditamente, e quelle ci sono tutte, quelle rimangono e quelle danno una grande vita, una grande importanza a questi attori sul palcoscenico. Ma ci saranno anche delle intersezioni musicali? Sì, ci saranno, oddio, delle intersezioni musicali, nel senso sì, ci saranno delle tracce musicali non dal vivo, però insomma sì, ci sarà un accompagnamento musicale scena dopo scena. Non sono le colonne sonore vere e proprie dei film, perché siccome sono 20 pezzi, sono molto diversi, diventava troppo complicato e troppo straniante, cioè mettere musica completamente diversa, però sì, alcuni pezzi ci sono, e poi c'è un accompagnamento che fa da filo conduttore, che è una colonna sonora celeberrima, che è quella di Amélie. Ah, bellissima. Beh, Jan Tiersen, grande musicista, potevo portarlo, esatto. Guarda, così faceva la colonna sonora. Solo che noi andiamo sempre così, anche noi, improvvisando tra uno spettacolo e l'altro. Confrontarsi, ne abbiamo già parlato, ma per quanto riguarda le realtà che andranno sul palcoscenico, sono tra le più eterogenee, no? Come film ci sarà di tutto, per i generi, diciamolo in maniera più primitiva. Assolutamente sì, dalla commedia più pura al dramma molto, molto intenso, anche ti posso citare un paio di titoli tipo White Oleander oppure La pazza gioia, con dei piccoli intermezzi che sono delle piccole chicche che abbiamo pensato, con le quali abbiamo pensato di intervallare i pezzi più lunghi, e sono proprio le battute celeberrime di tutti i film. Adesso non voglio anticipare niente, però insomma diciamo che c'è questi vari pezzi, questi vari monologhi e dialoghi sono cuciti insieme da queste battute spot che conoscono veramente tutti, ed è molto carino e molto grazioso. Progetti futuri di Officine Guitti? Allora, noi siamo in scena questo sabato e questa domenica con Movies, e poi passiamo al primo weekend di maggio, dove saremo in scena con un altro spettacolo, una commedia divertentissima che si intitola Pallotto le parole, che è la penultima. Poi finiamo la stagione il primo weekend di giugno invece con un allestimento di un testo teatrale per eccellenza, che è Due partite della Comencini. E poi per quest'anno la stagione è finita. Vedi, siamo arrivati al termine con la bella stagione, magari facciamo qualcosa all'aperto, chissà, in queste aree. Esatto, dopo sì. Ci trasferiamo al mare. al mare, che sogno, che bello parlare del mare con un venerdì soleggiato. Però per un termine stagione con Francesca Pierantoni di Officina Guitti, vi aspettiamo a Teatro San Salvatore. Quando, dove, come, orario, giorni? Allora, noi siamo a teatro sabato sera, stiamo parlando del 21 di aprile, quindi domani alle ore 21, e domenica alle ore 18. Vi aspettiamo, non ci sono più tantissimi posti, però ancora qualcuno libero c'è, e quindi vi potete in qualche modo prenotare sul sito di Officine, sul Facebook di Officine, che è Officine Guitti, oppure scrivendo a officine@guittiteatro.it, o presentarvi direttamente in teatro con una mezz'oretta di anticipo, e noi siamo lì che vi aspettiamo. Ti ho già fatto i complimenti per Il Dio del Massacro, l'ultimo spettacolo che ho visto. No, non me li hai ancora fatti, sono sempre ben accetti. Te li posso fare in diretta? Certo, così li ascoltano tutti pubblicamente, no? È stata una bella, una bella reinterpretazione. Anzi, ti ringrazio tantissimo per lavorare insieme a ragazze e ragazzi che si avvicinano a queste narrazioni, che hanno una certa ricerca e una raffinatezza allo stesso tempo. Una bella misura, una bella prova. Yasmin Reza, una grandissima autrice, che dire, onore al merito anche chi l'ha scelta, cioè tu. Grazie Francesca, resta grazie con noi su 103.1. William. Ciao, ciao, ciao, ciao. Buona giornata a tutti, ciao. School. molto, lei ama questi ritmi, ama tantissimo Piero Umiliani, questo è Lady Magnolia dalla colonna sonora dell'omonimo film. Di solito quando sente queste ritmiche anni 70, questa cocktail music con spazi aperti, molto ambient e ovviamente molto cinematica, è molto molto felice. Noi siamo molto felici di allietare le ascoltatrici e gli ascoltatori dei 103.1, anche se ormai siamo a conclusione. Erika, i tuoi progetti futuri? Siamo vicini al weekend, stai a Bologna o te ne torni? I miei progetti futuri? No, resto a Bologna e tornerò a casa non so quando, probabilmente il primo maggio, mai, sì. Okay, beh, allora esatto. Il 25 aprile verrai con noi al Pratello. Al Pratello, come no? Ti aspettiamo, ci dai una mano a fare conduzione, ci dai una mano sulla frequenza dei 103.1 che cambierà, non sarà in studio in via Zanardi, ma direttamente in esterna, in via del Pratello, per voi, per anche conoscere gli ascoltatori, così face to face. Non siamo bellissimi, però Erika lo è già, è tutta un'altra cosa. Più adatta all'abbigliamento di questa puntata, l'altra volta con Nancy Wilson invece abbiamo fatto un salto negli anni 50, esatto. Cerchiamo di dare una colonna sonora a tutti i temi, agli ambienti anche presenti per le nostre dirette. Poi quando ti leggo l'EDP enciclopedico, vedi, te ridi meno, comunque ridono gli ascoltatori, ma tra pochissimo ne daremo presentazione. Diamo presentazione intanto a quello che sarà il palinsesto odierno con Elisa Iacobucci, chi fa da sefa per te dalle 10.30 alle 11.30. Spazio poi a Jazz Live con Marco Coppi, direttore artistico di Paradiso Jazz. Com'è Paradiso Jazz, Erika? Paradiso Jazz è paradisiaco. Sono stata ripetitiva, però effettivamente è una bellissima rassegna che io non conoscevo, tra l'altro vicino a casa mia, quindi... Non guasta, e sì, mi piace molto. Bene, e Children of the Light, come ti è sembrato? Beh, concertone. Un concerto. Oh, è partita la musica sul tuo concertone. Beh, si è emozionato anche il lettore CD. Thank you. interrotto la tua presentazione con uno stacco musicale inaspettato, un po' traditore. Tu hai l'onore di presentare Lady Per Enciclopedico. Che fortuna. Ma devo essere sincera, Willy, sai che aspettavo questo momento da parecchio tempo? Lo so, infatti ho sempre desiderato poter dire in diretta presentare Lady Per Enciclopedico di oggi. Si intitola Flatulenze in volo. È iniziato così con una corrente d'aria questo brano, l'ho messo apposta. L'hai scelto appositamente. Oggi tutta colonna sonora improvvisata, ma quanto mai attinente ai contenuti. Grazie Edipei che ci mettete sempre a nostro agio per la presentazione di questi titoli. Vi auguriamo buon weekend anche a voi, oltre che alle ascoltatrici e agli ascoltatori più mattinieri del Breakfast Club, la colazione diversamente normale sui 103.1 che ritorna lunedì, la settimana che vi accompagnerà al 25 aprile, in seguito poi al 1 maggio. Vi aspettiamo al Pratello, rimanete con noi in diretta per Radio Zanardi con Stefano Cotignoli ed Alfredo Pasquali e poi che dire, un buon ascolto sulle nostre frequenze da Erika Verdecchia e William Piana. Ciao! Ho sentito da ferne di che cosa? Nicole Berna. Nicole Berna. Nicole Berna, Nicole Berna, Nicole Berna, Nicole Berna. Ich denke, das ist von Margret. Ich denke, das ist von Margret. Ich denke, das ist von Margret. Ich denke, das ist von Margret. Ja, steht ja drauf.